era indisposta. Grave! E niente, un pochettin di podere alla testa e un pochettin di pendolo in un dente, ma con la scopa entriam, la porta è questa.